Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo, siamo sempre noi di 451 Frammenti Sonori, siamo rientrati in diretta su Radio Città del Capo. Un saluto da Alisio Scarpa, dato che sarò da solo ad accompagnarvi in questa notte piuttosto caotica, e purtroppo abbiamo anche dovuto iniziare un po' in ritardo per i festeggiamenti chiaramente della partita dell'Italia, dunque siamo partiti un po' in ritardo, ma recupereremo sicuramente, almeno lo speriamo, in qualità e in dinamismo musicale stasera. Dunque, condotto solo da me, 451 Frammenti Sonori riparte, e riparte su un tema che possiamo dire si avvicina anche a certe dimensioni più ritmate, più vitali, più energiche, legate all'avvento di quest'estate che a Bologna, come al solito, è piuttosto umida e opprimente. Tema quello legato alla black music, in particolare al funk, l'abbiamo intitolato Obliquita Funk, dagli anni 80 agli anni 0. Dunque tutto ciò che è obliquo, che attraversa il funk, che il funk attraversa, utilizzando anche incroci e obliquità connesse a vari generi musicali, attraversando in parte la dance, attraversando l'elettro, che poi è una derivazione del funk, per attraversare ulteriormente anche le dimensioni house e techno che hanno poi imperversato tra la fine degli anni 80 e gli anni 90 fino ai giorni nostri, intervallando anche momenti legati a certe dimensioni post rock, e in alcuni casi anche a influenze connesse a certe musiche ambientali e anche a certi rimandi di un funk anni 70, soprattutto quello legato alle atmosfere delle colonne sonore dei film polizieschi e non americani. E partiamo subito, dato che siamo un po' in ritardo, con un progetto assolutamente geniale, fondamentale, della fine degli anni 70, inizio anni 80, progetto capitanato da quel genio assoluto che è stato Arthur Russell a New York. New York City si è basato per costruire questo progetto, i Dinosaur L, formazione assolutamente seminale dal punto di vista musicale, un funk che esplora, e lo sentiremo dal disco 2424 Music del 1981-82, che ha veramente rivoluzionato l'idea musicale che in quegli anni incominciava già ad emergere, che poi avrà la sua derivazione tra l'elettro, in alcuni casi anche al rap, che poi si è derivato e ha sviluppato il discorso hip hop, ma anche a una sorta di proto house, con una batteria, una cassa dritta che è assolutamente innovativa ed avanguardia rispetto al 1981, che sarà assolutamente geniale appunto nella costruzione di questo splendido lavoro uscito nel 1981 per la Traffic Entertainment Group. Ce lo andiamo a sentire subito, dunque 2424 Music, partiamo direi veramente alla grande con un grandissimo album e un grandissimo brano, Dinosaur L, il grande Arthur Russell. Buon ascolto con 451 Frammenti Sonori. Thank you. really in the mood today. I'm a former scientist, now on wheels. And I was discouraged by you. You who never pushed the wheels. You did it to him, and I'm next. We're 1981, direi un anno assolutamente esplosivo dal punto di vista musicale. Anche il disco che abbiamo orora ascoltato, si tratta di un gruppo altrettanto importante quanto il Dinosaurel di Arthur Russell, splendido progetto Woes Not Woes, disco del 1981, Out Comes the Freaks, splendido album, il primo album, l'album d'esordio di questo progetto, Wheel Me Out, il brano che abbiamo ascoltato orora. E da Dinosaurel, che vi ricordiamo ancora per coloro che li conoscessero poco, formazione nata e cresciuta a New York, costruita dal grande genio di Arthur Russell, con una formazione assolutamente devastante dal punto di vista dei nomi. Insomma, avevamo alla chitarra Devin Byrne, che insomma non ha bisogno di presentazioni, fondatore, elemento fondante dei Talking Heads, Will Bascom Jr. al basso, Alan Schwarber alla batteria, e poi con la presenza anche nel progetto di collaborazioni importanti, insomma, quali Yoko Ono e Tom Verlaine. Formazione assolutamente seminale per tutta la musica sperimentale, ma anche nella sperimentalità dentro la dance che si è sviluppata negli anni 80 e poi è stata comunque fondante anche per tutta la musica elettronica degli anni 90 e degli anni 0. E ora abbiamo ascoltato invece il progetto Woes Not Woes, abbiamo detto appunto uscito questo album d'esordio omonimo nel 1981, dunque entrambi i dischi che abbiamo messo in onda in apertura della puntata sono dell'81, progetto importantissimo, nato in questo caso a Detroit e seminale per tutta la musica elettronica, in particolare della techno di Detroit, che si è sviluppata poi qualche anno dopo. Importantissimo progetto che ha sviluppato almeno tre album molto belli dall'81 all'87, sempre in un ambito di un funk obliquo che attraversa vari meandri musicali per arrivare al dance più cerebrale, più sperimentale, mixata però ovviamente con l'elemento più fisico legato anche alla black music, dunque elementi che comunque lavorano anche sulla corporeità, sul movimento, e generano ovviamente per chi li ascolta anche un movimento vero e proprio del corpo in ovviamente risposta alle frequenze musicali e soprattutto alla ritmicità espressa da questo progetto. Woes Not Woes, dunque, dopo Dinosaurelle, e adesso invece ci spostiamo oltre oceano, ci spostiamo dagli Stati Uniti all'Inghilterra e andiamo in una terra importante come quella inglese per affrontare anche l'elemento funk obliquo, le obliquità funk che hanno ovviamente anche attraversato la Gran Bretagna, in particolare a Manchester alla fine degli anni 70, un progetto che era nato nell'ambito della scena punk, se più quella più sperimentale, quella più aperta anche alle dimensioni legate alla black music, in particolare al jazz, al funk, e andiamo a scovare Certain Ratio, formazione anch'essa importantissima nella musica funk e nel post-punk della fine anni 70, inizio anni 80. Formazione importantissima che ha ovviamente avuto anche dei seri intrecci e collegamenti anche con una certa musica industriale, seppur sempre di più nel corso degli anni 80 ha privilegiato l'aspetto più legato al funk e alla black music. In particolare andiamo a pescare adesso un album del 1982, uno splendido lavoro dove l'elemento funk in alcuni momenti anche con delle diramazioni vicine alla disco esprimono il massimo dentro il progetto di Certain Ratio. E andiamo proprio a pescare nell'82 I'd Like to See You Again, e in particolare questo brano che andiamo subito ad ascoltare, che rappresenta in pieno la fisicità, la ritmicità, l'elemento funk portato però ovviamente su un linguaggio più squisitamente inglese. Andiamocene dunque a godere insieme i grandi Certain Ratio, I'd Like to See You Again. We'll be right back. Yeah. We'll be right back. e abbiamo mixato lo stesso brano in realtà di Certain Ratio, uno splendido lavoro questo, Knife Slit Water, la versione dall'album dello stesso anno, poi in realtà 1982, che abbiamo preso da Ed I'd Like to See Again, la versione più funk, forse più nera, e l'abbiamo mixata la versione più industrial, molto più scura, inquietante quanto l'album in questione, che è uscito sempre lo stesso anno, nel 1982, intitolato Sextet, la versione diciamo più inquietante ed industriale, la versione più aperta, più solare, più ritmata, più black, che abbiamo messo in onda prima, appunto, come primo brano, come prima versione dello stesso brano. E Certain Ratio, formazione assolutamente avanti ancora adesso nel 2012, formazione assolutamente importantissima nell'ambito di tutta la musica, nell'obliquità, nell'anomalia funk che hanno attraversato gli anni 80. E ora, per chiudere la prima parte, perché siamo ormai prossimi al GR di Radio Popolare Network, chiudiamo sempre dall'Inghilterra e sempre diciamo dalla scena industrial, che ha avuto spesso collegamenti con la black music, in particolare con l'elemento funk che ha attraversato moltissimi progetti industriali, forse appunto molti profani non lo sanno, pensano alla musica industriale come qualcosa di assolutamente bianco, di collegato a atmosfere, a sonorità dure, spigolose, tenebrose, molto molto scure, molto molto inquietanti. In realtà esiste anche una dimensione più black, più fisica, più movimentata, più corporea, che attraversa l'industrial, e in particolare anche questa formazione tra le più importanti della scena industriale, nata chiaramente nella terra della musica industriale a Sheffield, e parliamo dei Clock DVA, che è stato e rimane uno dei gruppi più importanti della scena industriale, e in particolare anche molto importante per tutte le derivazioni elettroniche che hanno attraversato il loro progetto, che è andato avanti per molti anni e che appunto è stata seminale per molta musica elettronica degli anni 90 e degli anni 0. Formazione appunto che ha gravitato intorno alle altre band fondamentali come Trouble Grist, Cabaret Voltaire. Clock DVA è nata diciamo tra la fine degli anni 70 e inizio anni 80 appunto a Sheffield, e è stata appunto fondamentale per tutti gli sviluppi sperimentali ed elettronici che poi hanno attraversato anche in particolare gli anni 90. È proprio un disco degli anni 90 andiamo a pescare, un disco molto molto bello del 1992, uscito per la Contempo Records. Si tratta di Digital Soundtracks, dove l'elemento elettronico, con chiari riferimenti in particolare alle musicalità, alle strutture di Kraftwerk, ma anche di tanta elettronica aperta che ha attraversato gli anni 70-80, emerge. E ci andiamo a sentire proprio un brano da questo splendido lavoro del 92 per chiudere la prima parte di Obliquità Funk di stasera. Poi ci risentiremo chiaramente dopo il GR di Radio Popolare Network. Il brano che abbiamo selezionato per la chiusura è il brano Sound Sweep. Buon ascolto.